Cari fratelli e sorelle, nelle catechesi su figure grandi della Chiesa dei primi secoli arriviamo oggi a una figura eminente, Sant'Ireneo di Lione. Le notizie biografiche su Sant'Ireneo provengono dalla sua stessa testimonianza, tramandata a noi da Eusebio nel quinto libro della Storia Ecclesiastica. Ireneo nacque con tutta probabilità a Smirne, oggi Izmir in Turchia, verso il 135 o 140, dove, ancor giovane, fu alla scuola del vescovo Policarpo, discepolo a sua volta dell'apostolo Giovanni. Non sappiamo quando si trasferì dall'Asia Minore in Gallia, ma lo spostamento dovette coincidere con i primi sviluppi della comunità cristiana di Lione. Qui, nel 177, troviamo Ireneo annoverato nel collegio dei presbiteri. Proprio in quell'anno egli fu mandato a Roma, l'autore di una lettera della comunità di Lione al Papa Eleuterio. La missione romana sottrasse Ireneo alla persecuzione di Marco Aurelio, nella quale caddero almeno 48 martiri, tra cui lo stesso vescovo di Lione, il 90enne Potino, morto da maltrattamenti in carcere. Così al suo ritorno Ireneo fu eletto vescovo della città. Il nuovo pastore si dedicò totalmente al ministero episcopale, che si concluse verso il 202-203, forse con il martirio. Ireneo è anzitutto un uomo di fede e un pastore. Del buon pastore ha il senso della misura, la ricchezza della dottrina e l'ardore missionario. Come scrittore persegue un duplice scopo: difendere la vera dottrina dagli assalti degli eretici ed esporre con chiarezza la verità della fede. A questi fini corrispondono esattamente le due opere di cui di lui ci rimangono, i cinque libri contro le eresie e l'esposizione della predicazione apostolica, che si potrebbe anche chiamare il più antico catechismo della dottrina cristiana. In definitiva, Ireneo è il campione della lotta contro le eresie. La Chiesa del secondo secolo era minacciata dalla cosiddetta gnosi, una dottrina che affermava che la fede insegnata nella Chiesa sarebbe solo un simbolismo per i semplici, che non sono in grado di capire cose difficili. Invece gli iniziati, gli intellettuali, gnostici si chiamavano, avrebbero capito quanto sta dietro questi simboli e così formarono un cristianesimo elitario, intellettualista, e ovviamente questo cristianesimo intellettualista si frammentava sempre più in diverse correnti, con pensieri spesso strani ed stravaganti, ma attrattivi per molti. Un elemento comune di queste diverse correnti fu il dualismo, cioè si negava la fede nell'unico Dio Padre di tutti, creatore e salvatore dell'uomo e del mondo. Per spiegare il male nel mondo, affermarono accanto al Dio buono un principio negativo, e questo principio negativo avrebbe prodotto le cose materiali la materia. Radicandosi saldamente nella dottrina biblica della creazione, Ireneo confuta questo dualismo e confuta il pessimismo gnostico che svalutava le realtà corporee. Ireneo rivendicava decisamente l'originaria santità della materia, del corpo, della carne, non meno che dello spirito. Ma la sua opera va ben oltre la confutazione della eresia. Si può dire infatti che egli si presenta come il primo grande teologo della Chiesa che ha creato la teologia sistematica. Lui stesso parla del sistema della teologia, cioè della interna coerenza di tutta la fede. Al centro della sua dottrina sta la questione della regola della fede e della sua trasmissione. Per Ireneo la regola della fede coincide in pratica con il credo degli apostoli e ci dà la chiave da dove interpretare il Vangelo, dove interpretare nel Vangelo. Il credo è la somma del Vangelo, ci aiuta di capire che cosa vuol dire, come dobbiamo leggere il Vangelo. Di fatto il Vangelo predicato da Ireneo è quello che egli ha ricevuto da Policarpo, vescovo di Smirne. Come detto, il Vangelo di Policarpo risale all'apostolo Giovanni, di cui Policarpo era discepolo. E così ci dice il vero insegnamento e non quello inventato dagli intellettuali dietro la fede della Chiesa, la fede semplice, ma il vero Evangelo è quello impartito dai vescovi che hanno ricevuto questo Vangelo in una catena ininterrotta dagli apostoli che non hanno insegnato altro che proprio questa fede semplice, che è anche la vera profondità della rivelazione di Dio. Così ci dice, non sta una dottrina segreta dietro il comune credo della Chiesa, non esiste un cristianesimo superiore per gli intellettuali. La fede pubblicamente confessata della Chiesa è la fede comune per tutti, solo questa fede è apostolica, viene dagli apostoli, cioè da Gesù e da Dio. In questa fede, trasmessa pubblicamente dagli apostoli ai loro successori, i vescovi, devono osservare quindi quanto dicono i vescovi, considerare specialmente l'insegnamento della Chiesa di Roma, preminente e antichissima. La Chiesa di Roma, a causa della sua antichità, ha la maggiore apostolicità, trae origine dalle colonne del Collegio Apostolico Pietro e Paolo con la Chiesa di Roma. Devono accordarsi tutte le chiese come la misura della vera tradizione apostolica, della unica fede comune della Chiesa. Con tali argomenti, qui molto brevemente riassunti, Ireneo confuta dalle fondamenta le pretese di questi gnostici intellettuali. Anzitutto, essi non posseggono una verità che sarebbe superiore a quella della fede comune, perché quanto dicono loro non è di origine apostolica, è inventato da loro. In secondo luogo, la verità e la salvezza non sono privilegio o monopolio di pochi, ma tutti le possono raggiungere attraverso la predicazione dei successori degli apostoli e soprattutto del vescovo di Roma. In particolare, sempre polemizzando con il carattere segreto della tradizione gnostica e notando gli esiti molteplici fra loro contraddittori, Ireneo si preoccupa di illustrare il genuino concetto di tradizione apostolica che possiamo riassumere in tre punti. Primo, la tradizione apostolica è pubblica, non privata o segreta. Per Ireneo non c'è alcun dubbio che il contenuto della fede trasmessa dalla Chiesa è quello ricevuto dagli Apostoli e da Gesù, dal Figlio di Dio. Non esiste altro insegnamento che questo. Pertanto, chi vuole conoscere la vera dottrina, basta che conosca la tradizione che viene dagli Apostoli e la fede annunciata agli uomini. Tradizione e fede, così dice verbalmente, sono giunte fino a noi attraverso la successione dei Vescovi. Così, successione dei Vescovi, principio personale, e tradizione apostolica, principio dottrinale, coincidono. Secondo elemento. La tradizione apostolica non è solo pubblica, è unica. Mentre infatti lo gnosticismo è suddiviso in molteplici sette, la tradizione della Chiesa è unica nei suoi contenuti fondamentali, che Ireneo chiama appunto regola fide veritatis, e così perché è unica, crea unità attraverso i popoli, attraverso le culture diverse, attraverso i popoli diversi. È un contenuto comune, come la verità è comune nella diversità delle lingue e delle culture. C'è una frase molto preziosa di Sant'Ireneo nel libro contro le eresie, dove dice: la Chiesa, benché disseminata in tutto il mondo, custodisce con cura la fede degli Apostoli come se abitasse una casa sola. Allo stesso modo crede in queste verità come se avesse una sola anima e lo stesso cuore. In pieno accordo queste verità proclama, insegna e trasmette come se avesse una sola bocca. Le lingue del mondo sono diverse, ma la potenza della tradizione è unica e la stessa. Le chiese, così continua, le chiese fondate nelle Germanie non hanno ricevuto né trasmette una fede diversa, né quelle fondate nelle Spagne o tra i Celti o nelle regioni orientali o in Egitto o in Libia o nel centro del mondo. Si vede già in questo momento, siamo nell'anno 200, la universalità della Chiesa, la sua cattolicità e la forza unificante della verità che unisce queste realtà così diverse, dalle Germania alla Spagna, all'Italia, all'Egitto, alla Libia, nella comune verità rivelataci da Cristo. Terzo elemento. Infine, la tradizione apostolica è, come lui dice, nella lingua greca nella quale ha scritto il suo libro, è pneumatica, vuol dire spirituale, guidata dallo Spirito Santo. In greco spirito si dice pneuma. Non si tratta infatti di una trasmissione affidata all'abilità di uomini più o meno dotti, ma lo Spirito di Dio che garantisce la fedeltà della trasmissione della fede. È questa la vita della Chiesa, ciò che rende la Chiesa sempre fresca e giovane, feconda di molteplici carismi. Chiesa e Spirito per Ireneo sono inseparabili. Questa fede, diciamo ancora nel terzo libro contro le eresie, questa fede l'abbiamo ricevuta dalla Chiesa e la custodiamo. La fede per opera dello Spirito di Dio, come un deposito prezioso custodito in un vaso di valore, ringiovanisce sempre e fa ringiovanire anche il vaso che la contiene. Dove è la Chiesa, lì è lo Spirito di Dio, e dove è lo Spirito di Dio, lì è la Chiesa e ogni grazia. Come vediamo, Ireneo non si limita a definire il concetto di tradizione e la sua tradizione della tradizione ininterrotta, non è tradizionalismo, perché questa tradizione è sempre internamente vivificata dallo Spirito Santo che la fa di nuovo vivere, essere interpretata e compresa nella vitalità della Chiesa. Stando al suo insegnamento, la fede della Chiesa va trasmessa in modo che appaia quale deve essere, cioè pubblica, unica, pneumatica, spirituale. A partire da ciascuna di queste caratteristiche si può condurre un fruttuoso discernimento circa l'autentica trasmissione della fede nell'oggi della Chiesa. Più in generale, nella dottrina di Ireneo, la dignità dell'uomo corpo e anima è saldamente ancorata nella creazione divina dell'immagine di Cristo e nell'opera permanente di santificazione dello Spirito. Tale dottrina è come una via maestra per chiarire insieme a tutte le persone di buona volontà l'oggetto e il confine del dialogo sui valori, per dare slancio sempre nuovo all'azione missionaria della Chiesa, alla presenza della verità che è la fonte di tutti i veri valori nel mondo.